Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Chiusura di settimana, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e chiusura di giornata, quindi è il momento di fare una sintesi, non ovviamente tutta la settimana, ma in particolare di questa giornata, che è stata caratterizzata da alcuni piccoli passi, vogliamo dire, a seconda poi dei punti di vista. Insomma, comunque l'Italicum, per quanto riguarda questa proposta di legge di Renzi, di intesa con Berlusconi, insomma, partorita dal loro accordo, c'è stato il primo sì a questo testo base da parte della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Poi il Consiglio dei Ministri ha varato delle privatizzazioni di cui parleremo, e allora vi chiedo su questo argomento e sulla legge elettorale le vostre opinioni questa sera, sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Cosa cambiereste di questa bozza per il momento di legge elettorale, e anche cosa ne pensate di queste privatizzazioni? Parliamo di quella delle Poste e dell'ENAV, l'ente nazionale dell'aviazione civile. E poi questo è stato anche il venerdì delle tasse, il cosiddetto venerdì nero. Oggi c'era la scadenza della minimu e della Tares, ve le siete ricordate? Se non ve la foste ricordato, non pensate che il vostro cervello sia ormai in acqua, soprattutto se siete, diciamo, in un'età un po' matura, perché c'è questa scoperta che, secondo la quale il cervello degli anziani non subisce un declino cognitivo, in realtà è solo più lento perché contiene già moltissime informazioni e la loro selezione richiede ovviamente più tempo. Questo è il risultato di uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Tübingen in Germania, in uno studio pubblicato su Topics in Cognitive Science. Insomma, il cervello funziona un po' come un computer, no? Quando è molto molto pieno, la sua memoria è piena, non vuol dire che non funziona più, è perché si rallenta, perché è piena. E così per il cervello di chi, insomma, non ha proprio un'età verde. Noi però ricordiamoci, anzi io vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi. Partendo dal Consiglio dei Ministri, via libera a privatizzazioni di Poste ed ENAV, Letta dice: così ridurremo il debito pubblico. Legge elettorale, l'Italicum muove i primi passi in commissione alla Camera, pronto l'emendamento del nuovo centrodestra sulle preferenze. Forza Italia, Giovanni Toti passa dal TG Mediaset al partito con la nomina da parte di Berlusconi a consigliere politico. Intanto Berlusconi dice con Renzi si può parlare, Vendola oggi, che ha aperto il congresso di SEL, commenta no all'abbraccio del Caimano. Il doppio incarico di De Luca, accolto il ricorso del Movimento 5 Stelle, il viceministro decade da sindaco di Salerno, lui replica farò ricorso. E poi l'Egitto, il paese travolto dagli scontri, almeno 19 morti al Cairo e in altre città. Autostrade Lupi dice da febbraio riduzione del 20% ai pendolari. E poi il tennis, bis di Sara Errani e Roberta Vinci agli Australian Open, quarto slam vinto per le regine. Partiamo quindi dal Consiglio dei Ministri, oggi impegnato in una serie di questioni delicate, a partire appunto dalle privatizzazioni che vi dicevo. Che frutti quindi ci sono stati? Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Dicevi giustamente da studio, un Consiglio dei Ministri molto importante. Partiamo proprio dalle privatizzazioni, lo dicevi, Poste, si tratta del 40% che sarà messo sul mercato, e per quanto riguarda l'ente nazionale per l'aviazione civile ci sarà il 49% che andrà sul mercato. Rispettivamente il governo prevede di incassare quasi 5 miliardi con le Poste e 1 miliardo dall'ENAV. Questo per quanto riguarda le privatizzazioni, che secondo il Presidente del Consiglio Letta contribuiranno a far diminuire il debito, che già ha iniziato questa sua inversione di tendenza, ha ricordato il Premier, rispetto agli ultimi 8 semestri, se non sbaglio. E poi altro elemento molto importante ha annunciato sempre in Consiglio dei Ministri Letta: sono stati rinviati i termini per pagare i premi INAIL in autoliquidazione. E questo è un argomento che forse a noi direttamente interessa un po' meno, ma agli imprenditori, a chi opera ogni giorno nel mondo produttivo, è un aspetto molto importante, perché consentirà di far rimanere nelle casse delle aziende diversi centinaia di milioni di euro. E su questo possiamo ascoltare il contributo del Presidente del Consiglio Letta. 3 miliardi per il 2014, bensì verranno pagati 2 miliardi, ma abbiamo anche dato un segno molto forte alle imprese italiane in questo trimestre, in questo periodo, per spingere sulla fiducia e sulla crescita. Abbiamo deciso che questi 2 miliardi non verranno pagati il 16 febbraio, invece dei 3 miliardi che dovevano essere originariamente previsti, ma che il tutto verrà pagato nel mese di maggio. Quindi diamo alle imprese 3 mesi di liquidità in più, che in un momento nel quale il reperimento di credito è così faticoso, crediamo rappresenti una boccata di ossigeno molto importante per le imprese italiane. Quindi oggi la scelta è quella di dare una boccata di ossigeno alle imprese, facendo sì che abbiano per 3 mesi in più 2 miliardi di euro di liquidità, che servirà sicuramente per investire, per spingere la crescita, cosa che rappresenta per noi un grandissimo e importante obiettivo. E quindi questo era Letta, il Presidente del Consiglio, Vincenzo. Sì, e quindi questo Letta, per quanto riguarda quindi il rinvio dei termini per pagare i premi INAIL. Poi altro elemento molto importante, c'è stato il taglio delle preannunciate detrazioni. C'è stato lo stop al taglio delle detrazioni fiscali, quindi non ci saranno più questo taglio a questo importante aspetto finanziario che comporta importanti agevolazioni per tutti noi nella vita di tutti i giorni. Altro elemento molto importante, si è dato il via libera al rientro dei capitali dall'estero e il ministro Saccomanni ha ricordato, questo qui non è un condone, possiamo ascoltare un brevissimo contributo di Saccomanni. Non si tratta di un condono né di un'amnistia. E questo, cercato di essere chiaro, no? Breve e chiaro su questo, non è un condono, non è un'amnistia, anche perché non ci sarà l'anonimato, no? Su questo rientro dei capitali, Vincenzo. È così, bisogna autodenunciarsi e andrà in galera addirittura, ed è giusto che sia così per chi denuncia il falso su un aspetto così importante. Intanto continua l'iter della legge elettorale dell'Italicum, no? Già abbiamo detto che è stato il primo sì oggi in commissione alla Camera. Il primo sì in commissione, quindi tempi abbastanza celeri. Alla Camera il sì è arrivato dai tre partiti che hanno sottoscritto l'accordo iniziale, quindi Forza Italia, Partito Democratico e Nuovo Centrodestra. Si è affiancata anche Scelta Civica, Alfano insiste affinché vi siano le preferenze, ed è questa una battaglia che viene portata avanti anche dalle altre minoranze che presenti in Parlamento. Senti, poi invece Berlusconi ha scelto, ha nominato ufficialmente il suo consigliere, forse un ridimensionamento per quello che doveva essere il ruolo di Toti, no? Di Giovanni sì, Toti. Toti, che fino a qualche settimana fa doveva essere coordinatore unico in Forza Italia, poi ricordiamo le tante polemiche che c'erano state nel gruppo storico dei vertici di Forza Italia, che evidentemente si vedevano scavalcati dall'arrivo di Toti. Oggi l'annuncio sarà consigliere politico. Per cui bisognerebbe capire che ruolo effettivamente avrà poi a fianco di Silvio Berlusconi Toti. Il Cavaliere anche oggi ha speso parole positive invece nei confronti di Renzi, è l'unico nel PD con il quale si possa parlare, ha difeso l'intesa sulla legge elettorale, poi Berlusconi è tornato ad attaccare i magistrati, addirittura ha parlato proprio di barbaria giudiziaria che lo ha colpito negli ultimi 20 anni. Grazie Vincenzo Migliese, tutto questo riassunto della giornata politica sia sul piano elettorale sia del Consiglio dei Ministri. Oggi c'è stato anche l'apertura del congresso di SEL, in vista delle future alleanze obbligate anche dalla nuova legge elettorale. Il leader di SEL, Vendola, parlando dal congresso del suo partito Riccione, avverte: non ho alcuna voglia di iscrivermi a nessuna delle correnti interne del PD, perché il PD non è il mio né il nostro destino. E poi, a proposito di larghe intese, ha detto: sono state una deriva, un compromesso a ribasso di chi ha fatto dell'assalto alla Costituzione il cuore della propria proposta. E il Tribunale di Salerno ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, vice ministro alle infrastrutture, per incompatibilità con l'incarico di governo. L'appello sospende l'ordinanza e questo è un fatto certo, anche perché nell'annunciare l'appello il sindaco di Salerno e sottosegretario alle infrastrutture specifica legge, articolo e comma secondo cui appunto in questo genere di controversie, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, l'appello sospende l'ordinanza. Questa mattina il Tribunale di Salerno ha dichiarato Vincenzo De Luca decaduto dalla carica di primo cittadino per incompatibilità con l'incarico di governo. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato oltre un anno e mezzo fa dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. De Luca non ha voluto commentare oltre. I commenti invece sono arrivati dai grillini, convinti di spuntarla anche in appello. Silvia Giordano, una delle firmatarie del ricorso dei 5 Stelle, così a effetto giorno. Ormai la legge è totalmente dalla nostra parte, lo era anche prima, indipendentemente dal ricorso. Lui ha voluto far finta di niente, abbiamo fatto il ricorso, ci hanno dato pienamente ragione, ora sarebbe stato il caso di mettersi o comunque di aspettare questa sentenza. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione e naturalmente i temi della giustizia sono sempre in primo piano. Una giustizia resa a distanza di 10 o più anni dai fatti non è giustizia. Così il primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, a proposito dello stato della giustizia, urge una riforma del sistema, riforma auspicata anche dal ministro Anna Maria Cancellieri. È innegabile che l'andamento ondivago di molti degli interventi che si sono susseguiti nel tempo in materia di giustizia abbiano non di rado risentito del clamore suscitato da singoli eventi. Compito della politica, in particolare di chi ha la responsabilità di governo, è costruire un percorso riformatore che abbia al centro gli interessi della collettività. Il quadro sullo stato di salute della giustizia italiana dipinto oggi in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario è lo specchio dei tempi. Cresce il numero di reati legati alla crisi economica, sfratti, fallimenti, decreti ingiuntivi di pagamento, cause di lavoro a seguito dei licenziamenti, numeri che si inseriscono in un sistema in cui si contano oltre 5 milioni di cause civili pendenti e più di 3 milioni di processi penali in attesa di arrivare a giudizio. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci ora sulle notizie dall'estero. Le delegazioni del regime e delle opposizioni siriane in esilio domani si incontreranno nella stessa stanza. Questo l'ha detto l'inviato speciale dell'ONU, Brahimi, in conferenza stampa al termine della prima giornata di negoziati tra le due parti. Di Siria hanno parlato anche il Papa e il presidente francese Hollande oggi nel loro incontro. Medio Oriente e Siria, famiglia, bioetica, rispetto delle comunità religiose e dei luoghi di culto. Sta in questi elementi la traccia dei 35 minuti di colloquio tra il presidente francese François Hollande e Papa Francesco. Hollande ha regalato al pontefice un libro su San Francesco d'Assisi e il Papa ha scherzato sull'omonimia Francesco François e anche il suo patrono. La notizia ha avuto ampio spazio sulla stampa francese, che però ovviamente non ha smesso di dedicarsi anche alle questioni private del presidente. Secondo un sondaggio pubblicato dal Parisien, la maggior parte dei francesi, il 54%, non desidera la figura della Première Dame. Secondo lo stesso sondaggio, la Première Dame più amata è stata Bernadette Chirac e la meno amata proprio l'attuale Valérie Trier-Wheeler, che presto andrà in India ma a titolo personale, come ha chiarito alla stampa la responsabile del sviluppo dell'ONG Azione contro la fame. E il futuro della relazione con il presidente? Stanno cercando un compromesso, ha detto il suo legale, subito bacchettato da quella che i detrattori chiamano la Rottweiler. A suo nome può parlare solo il portavoce dell'Eliseo, almeno per ora. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo di sport, di tennis, del bis di Sara Errani e Roberta Vinci agli Australian Open, quarto slam per le due regine. Le italiane hanno battuto le russe Makarova e Vesnina per 6-4, 3-6, 7-5. Poi Nadal straccia Federer e punta al 14° titolo slam. Tra lui e il titolo c'è soltanto lo svizzero Stanislav. Bene, questa è la prima parte di Effetto Notte, quindi di ricostruzione della giornata. Tra poco cominceremo a entrare nel vivo di alcuni argomenti, per esempio di tutto questo prodotto oggi del Consiglio dei Ministri e non solo. Poi parleremo di nuovo di legge elettorale. C'è per voi sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti sulla legge elettorale, sulle privatizzazioni, oppure il numero per i messaggi che è 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, poi vediamo se riusciamo a intercettare qualche pezzetto di Renzi che dovrebbe essere questa sera a Virus su Rai 2. Però tra poco c'è il primo ospite e io vi ricordo, se avete acceso adesso la radio, ricordatevi di accendere alle 21 per sentire dall'inizio Effetto Notte. Vi ricordo quali sono stati i fatti principali del giorno. Consiglio dei Ministri, via libera, privatizzazione di Poste ed Enav. Letta dice: così ridurremo il debito pubblico. E poi c'è il primo ok all'Italia, come in Commissione Affari Costituzionali. Napolitano che dice subito le riforme. E poi c'è il muro di Forza Italia sulle preferenze, anche il no di Franceschini. E poi per Forza Italia Giovanni Toti passa dai TG Mediaset al partito con la nomina da parte di Berlusconi a consigliere politico. Doppio incarico di De Luca, accolto il ricorso del Movimento 5 Stelle, il viceministro decade da sindaco di Salerno, lui però replica farò ricorso. L'Egitto, il paese travolto dagli scontri, almeno 19 morti al Cairo e in altre città. Per quanto riguarda l'autostrada, il ministro Lupi annuncia che da febbraio ci sarà una riduzione del 20% del costo per i pendolari. E poi tennis, bis di Sara Errani e Roberta Vinci agli Australian Open, quarto slam vinto per le regine del tennis. E dico subito benvenuto ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Tu mi permetterai, prima di iniziare il nostro colloquio, di sentire un po' di Renzi a Virus, ti va? Così magari siamo certo, sentiamo, sì, sentiamo che è un'immagine che mi è stata regalata da un imprenditore, da Diego Della Valle, che l'ha regalata a me e a Peter Mandelson. Mandelson è il grande guru, stratega di Tony Blair, poi commissario europeo. I comunisti che giocano a golf è la gauche caviar che piace molto agli italiani. Beh no, diciamo che quella immagine lì è un'immagine che fa pandan con il Bob Kennedy della festa di San Patrizio nel 68 e contemporaneamente Giorgio Lapira che per il sindaco di Firenze è sempre un'icona. Un aneddoto su Berlusconi che è venuto qua nella sede del PD. No, parliamo di cose, non faccia gossip, via, povero. Parliamo di contenuti. Va seri, bene. Dei problemi veri degli italiani, lasciamo stare. C'è stata sintonia poi a un certo punto, ha detto lei, con Berlusconi. Cosa ha detto? Quella cosa che ha creato detto, un po' di. Sì, si sono arrabbiati perché ho detto che c'è stata profonda sintonia. Profonda sintonia, esatto. Sa quando si arriva ai nomi, a discutere sui nomi, uno dice dovevi dire accordo e non sintonia. Vabbè, ognuno dice quello che vuole. Ci sono tre punti veri, concreti, su cui possiamo cambiare l'Italia. Uno, eliminare il Senato come lo conosciamo adesso e far diventare non soltanto il Senato gratis, ma far diventare il procedimento che fare leggi, certo, molto più semplice. Certo. Vuol dire ridurre il peso burocratico. Quindi su questo c'è un accordo, una sintonia, un'intesa. Bene, positivo. Due, fare una bella repulisti di come funzionano le regioni adesso, non soltanto in materia di competenze. Oggi le regioni si occupano di turismo, di energia, anche di cose su cui forse sarebbe più opportuno un coordinamento centrale, ma poi hanno questo sistema dei rimborsi ai consiglieri regionali che è inaccettabile. Quindi via i rimborsi ai consiglieri regionali, e un consigliere regionale, questo dice l'accordo, deve guadagnare non più di quello che guadagna il sindaco del comune capoluogo, quindi anche un bel risparmio economico, alla fine sarà più di un miliardo di euro il risparmio complessivo. E tre, una legge elettorale dove finalmente qualcuno vince. Cioè, ecco, se ci fosse la legge elettorale, poi torneremo anche a parlarne dopo. Alberto, volevi commentare, ti entusiasma questo piano programmatico di Renzi? Beh, entusiasma diciamo che è una parola molto forte, diciamo la verità. Diciamo è convincente per ora il tempo con cui sta realizzando gli annunci, questo diciamo è la vera novità di questo periodo. Poi è chiaro che per esempio sulla legge elettorale c'è un testo che è approdato alla Camera formalmente e oggi è riuscito ad avere il primo sì della Commissione Affari Costituzionali, quindi qualcosa si sta muovendo, la trattativa politica poi ha altre liturgie, altri tempi, però effettivamente qualcosa si muove, è successo, e dovrebbe, stiamo parlando da decenni, infatti, e dovrebbe tra l'altro arrivare diciamo a fine iter, quindi con l'approvazione di Camera e Senato verso fine maggio. Staremo a vedere insomma. Alberto, intanto occupiamoci di adesso. Oggi invece il Consiglio dei Ministri, non so se su sollecitazione di Renzi o anche del Sole 24 Ore che più volte è tornato a dire al governo insomma, di smuoversi dal suo immobilismo, di fare qualcosa di concreto, qualcosa ha fatto? Queste privatizzazioni ti convincono, a proposito di convincere, Alberto Rioli? Poste, ma indubbiamente oggi è una giornata del fare, per usare slogan che piacciono a Renzi, che piacciono comunque anche a Renzi, ma non c'è dubbio che ci sono questi tre grandi blocchi che riguardano l'economia, cioè il rientro dei capitali, la privatizzazione, l'abbattimento del premio dell'INAIL. Sono altrettante misure concrete che possono dare un pochettino di slancio all'economia. Senti, questo rientro dei capitali rapidissimi, però insomma comunque è un segnale. Questo rientro dei capitali, Saccomanni ci ha tenuto a precisare, non è un condono, è proprio così? Sì, esatto, non è uno scudo, anche perché rispetto al vecchio scudo di tremontiana memoria non consente l'anonimato. Quindi chi farà ammissione volontaria entro per, diciamo così, dichiarazioni omesse fino all'anno scorso, e dovrà poi appunto dichiarare quali sono i suoi capitali, che verranno immediatamente resi nominali. E quindi rispetto a prima, che c'era invece il totale blocco sulla privacy e la totale impossibilità per il fisco e per le autorità italiane di conoscere a chi corrispondessero quei denari, è una rivoluzione copernicana, obiettivamente. Poi le tasse dovranno essere pagate tutte, relative agli ultimi 10 anni, le sanzioni amministrative lo stesso. Quello che cambia effettivamente è l'impatto sul penale, che sarà piuttosto edulcorato, ed è il vero incentivo per chi ha commesso, diciamo così, l'illecito di esportazione dei capitali. È una scommessa forte, ma bisogna dire, se mi dai 25 secondi, certo, non 20, che sono troppo, ma molti di più. Bisogna dire che sta cambiando l'atteggiamento internazionale, si sta stringendo un po' la morsa, diciamo, da una parte. Ti chiedono gli stati nazionali, ti chiedono di autodenunciarti, dall'altra i grandi paradisi fiscali storici, come per esempio la Svizzera, cominciano a dire che non accetteranno più soldi di provenienza non trasparente, e fanno accordi per rendere nominali per rendere possibile la visura, diciamo così, dei possessori dei conti correnti, e quindi questo qui è una rivoluzione vera. E effettivamente un'azione di moral suasion accompagnata da uno sconto sulle sanzioni penali potrebbe avere una sua efficacia. Stiamo ancora, vediamo un pezzettino di Renzi, sentiamo da Virus. E nel nuovo sistema elettorale? Stavolta funziona che non c'è l'elettore dell'Emilia Romagna, c'è l'elettore di Piacenza, o di Ravenna, o di Rimini, o di Bologna, che vedrà eleggere del PD al massimo 2 persone, tre se al PD gli va bene, 3, non 28. E li vede non più in circoscrizioni grandi, ma in collegi plurinominali piccoli, vicini a quelli che erano i collegi della vecchia legge Mattarella, con la differenza che anziché un nome ci sarà più di un nome sulla scheda, uomini e donne, e però saranno stampati i nomi sulla scheda. Per cui se c'è Porro, che non piace, la volta scorsa era nascosto al numero 22 della lista emiliana, stavolta è il numero 2 o il numero 1 della lista di Piacenza. Sta ancora spiegando come funziona la sua bozza di legge elettorale. E c'è un ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome maschile, femminile, anche neutro, che scrive, Alberto Rioli: mi scusi, ma non dite nulla dei 7,5 miliardi che verranno regalati alle banche con i consigli dei ministri, col consiglio dei ministri di oggi? Ti risulta a te questa cosa, Alberto? No, non mi risulta, non vedo grandi regali alle banche. Cioè loro si attaccano al decreto Banca Italia sulla proprietà, sulla rivalutazione delle quote in pancia alle banche della Banca d'Italia, ma questa è una questione molto delicata e molto complessa, molto complessa, forse, che è diventata immediatamente oggetto di slogan ideologici, diciamo così, e quindi non è vera quell'interpretazione lì, non è corretta. Senti, invece, sulle privatizzazioni, c'era un'agenzia, una dichiarazione questa sera, anzi sì, un'agenzia che parlava di una dichiarazione di Matteo Salvini fatta da lui sul suo Facebook, che a proposito di privatizzazione dice al ladro: altro che privatizzazione, rischiamo di perdere Poste e Bancoposta, come è accaduto in passato per Autostrade e Telecom, per incassare 6 miliardi a fronte di un debito pubblico di 2070, e si perderà per sempre un patrimonio degli italiani. Che dici? No, anche questa è una lettura un po' forzata, nel senso che, a parte che ahimè loro hanno cifrato addirittura meno, perché oscilla la forchetta tra 4 miliardi e 4 miliardi e 8, però è vero che sarà una privatizzazione che cambierà anche l'approccio culturale alla cessione di una quota che rimane sempre di minoranza, perché si parla del 40%, quindi il controllo rimarrà comunque pubblico. E proprio vista la delicatezza della raccolta del risparmio postale, che tra l'altro è anche tutelato dalla Costituzione, quindi ha uno scudo, ha il migliore degli scudi possibili dal punto di vista normativo, è previsto il coinvolgimento dei dipendenti con forme di controllo alla tedesca, diciamo così, con un ingresso di rappresentanti dei dipendenti nei consigli di sorveglianza, con la possibilità, insomma, di interagire sugli indirizzi strategici poi dell'azienda in futuro. Quindi è una cosa che è una scommessa interessante anche da un punto di vista culturale per la modernizzazione delle nostre relazioni industriali, che secondo me può funzionare. Sentiamo ancora un po' di Renzi, va. Tranquille tra regioni e Stato, ad avere un premio di maggioranza che garantisca la governabilità, un ballottaggio che eviti le larghe intese. Rinunciamo a tutte queste cose perché mancano le preferenze, e andiamo paradossalmente a votare con una legge che prevede le preferenze in circoscrizioni enormi, come sarebbe quella di adesso. Oppure troviamo un compromesso. quando si fanno questi accordi un compromesso va trovato. Qual è il nostro compromesso del PD? Che noi facciamo le primarie. Per scegliere quali sono i due di Piacenza, va bene. Non li sceglie il partito punto. Alberto Rioli, non so se hai voglia di chiudere con un commento sulla legge elettorale, poi torneremo a parlarne dopo la pausa con altri ospiti. Che dici? Ma insomma, è un equilibrismo interessante perché viene incontro ai rilievi della Corte Costituzionale, consente al cittadino di avere qualcosa, non ancora effettivamente la vecchia pratica delle preferenze dirette, ma qualcosa di assai più controllabile, come spiegava prima, e questo è vero, tra l'altro mediato per i partiti che lo faranno dalle primarie, quindi un coinvolgimento più diretto e partecipativo da parte dell'elettore sul territorio obiettivamente esiste. Se poi si andrà al doppio turno, che consentirà di certificare al meglio il vero vincitore, abbinato all'idea che i piccoli partiti che sopravviveranno anche con il nuovo meccanismo paracadute che stanno studiando per salvare il primo di quelli che non superano la soglia, diciamo, rafforzerà l'idea delle coalizioni e forse dovrebbe garantire una governabilità più robusta. Lo spero, francamente, lo spero. Con la tua speranza ci salutiamo. Ciao Alberto Rioli, buon fine settimana. Grazie a voi. Ciao Alberto. Adesso vedevo un'agenzia che riguarda un terribile fatto di cronaca di qualche tempo fa. È stato scarcerato e condotto in una clinica a causa del suo profondo stato di prostrazione psicologica, al punto che ha tentato due volte il suicidio. Davide M., il 18enne che nel maggio dello scorso anno a Corigliano Calabro, vicino Cosenza, accoltellò al culmine di una lite la fidanzata 16enne, Fabiana Luzzi, vi ricordate, bruciandone il corpo. Quando, secondo ha dichiarato lo stesso giovane agli investigatori, la ragazza era ancora viva. La decisione è stata presa dal tribunale dei minorenni di Catanzaro. Siccome è molto prostrato, adesso dal carcere lo portano in clinica. Pubblicità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi per raccontarvi la giornata, per approfondire alcuni argomenti. Sempre la pagina Facebook anche con voi, Effetto Notte su Facebook, e il numero per i messaggi, per i vostri commenti anche 349-238-6666, perché il Movimento 5 Stelle chiede un Antonio da Bari, dovrebbe sporcarsi le mani e votare un'altra porcata voluta da un pregiudicato, dal suo figlioccio, vedi la pantomima dei foglietti dei collegi elettorali. C'è Renzi a virus, dopo lo risentiamo ancora qualche istante, e volevo leggere anche qualcosa invece sulla pagina Facebook. Tullio dice: con questi partiti qualsiasi legge elettorale diventa una truffa, litigano, si azzuffano, sottolineano il distinguo, poi vanno al governo insieme con coalizioni che sulla carta non potrebbero nemmeno avvicinarsi. Sentiamo Renzi ancora qualche istante da virus. No, devi restare con noi. E lui è andato al giuramento, ha giurato e ha fatto un intervento molto tosto nei confronti dei partiti. Fate. Dicendo: ehi, ma continuiamo così o voltiamo pagina? Tutti si sono impegnati, io non li sopporto quelli che fanno, quelli che dicono di fronte alle telecamere: no, adesso cambiamo. Non ho molto idea di a chi si stia riferendo, naturalmente prendendo pezzi quella. Allora vi ricordo prima i titoli: c'è stato il Consiglio dei Ministri, via libera alla privatizzazione di Poste ed Enav, e Letta dice: così ridurremo il debito pubblico. Poi c'è stato il primo passo in avanti dell'Italicum in commissione alla Camera, il primo ok, pronto l'emendamento del nuovo centrodestra sulle preferenze. Forza Italia, Berlusconi nomina Giovanni Toti suo consigliere, quindi Toti lascia i TG Mediaset. Il doppio incarico di De Luca sparisce, nel senso al momento, perché è stato accolto il ricorso del Movimento 5 Stelle, quindi il vice ministro decade da sindaco di Salerno, ma replica che farà ricorso. Egitto nel caos, il paese è travolto dagli scontri, almeno 19 morti al Cairo e in altre città. Lupi, che per le autostrade annuncia che da febbraio ci saranno per i pendolari riduzioni del 20%, e lo sport con il tennis, il bis di Sara Errani e Roberta Vinci agli Australian Open. Dall'Australia andiamo invece a Davos, dove c'è Vittorio D'Arolda del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Ciao, tutto bene? Ma dici tu lì al Forum Economico Mondiale, cosa stanno decidendo sulle nostre spalle, alle nostre spalle, caro Vittorio? Allora, qui naturalmente la grande preoccupazione è sui mercati emergenti. L'Europa era l'anno scorso il grande malato, si pensava che l'euro dovesse saltare, la Grecia uscire dalla moneta unica. Bene, quest'anno tutta un'altra storia, un altro film. Si parla solo di mercati emergenti in crisi, la Cina che non cresce, l'India, c'è una grande preoccupazione anche per l'India che non riesce a fare le riforme e che andrà al voto a maggio, una situazione di grande incertezza politica. la Turchia con una lira che perde sempre più colpi, quindi svalutazioni, l'Argentina, insomma tutto il loro, come sai, tutti naturalmente qui hanno sempre un problema, non c'è mai una situazione tranquilla. Beh, hanno messo sul piatto i problemi degli emergenti, che addirittura ti dico, la Deloitte, che è una società tra le maggiori, prevede addirittura una reindustrializzazione a favore dell'Occidente, cioè addirittura si dovrebbe tornare sui passi, quindi un ritorno della globalizzazione, che tra parentesi nacque proprio a Davos, nel senso che i primi passi vennero fatti proprio qui. Quindi non più delocalizzazione delle imprese, ma ritornano a casa? Torna a casa Alessi? Torna a casa Alessi, questa è una cosa abbastanza, perché i mercati emergenti non hanno fatto da 10 anni le riforme strutturali e quindi solo il basso costo del lavoro non è più sufficiente ad attrarre i capitali. Ti dico che qui per attrarre i capitali, perché la vera, diciamo, il glamour di questo posto è che naturalmente ci sono tutti i più grandi CEO delle più grandi multinazionali del mondo, quindi gli amministratori delegati, gli amministratori delegati delle più grandi multinazionali che possono decidere gli investimenti e quindi i destini di un paese. Allora qui, come tanti scolaretti, arrivano i primi ministri del Giappone, Shinzo Abe, che ha cercato di convincere questi, diciamo, il gota della finanza e dell'economia mondiale a investire nei bond giapponesi, perché lui vuole finalmente uscire dalla deflazione. Poi è arrivato il presidente iraniano Rouhani, che dice: se andiamo all'accordo sul nucleare, venite compagnie internazionali con le vostre tecnologie e riprenderemo a, diciamo, a estrarre il petrolio iraniano. Poi è arrivato il presidente del Messico, questa mattina il primo ministro britannico Cameron, insomma, che vuole rilanciare la manifattura. Tutti qui a chiedere a questi, appunto, master dell'universo di venire a investire nel loro paese. Senti, in Italia vengono a investire, secondo te, Vittorio? Qui il problema italiano è che loro non sono interessati alla diatriba tra Letta o Renzi, o a tutte queste nostre, diciamo, convulsioni politiche. A loro interessa sapere se verrà ridotto il costo del lavoro, se riducono la corporate tax, quindi se riducono le tasse sulle imprese, cuneo fiscale, cuneo fiscale, meno burocrazia, se si fa un processo si deve sapere in 2 mesi chi vince, insomma, tutte le cose che chiedono sempre queste persone, che però qui nessuno ancora risolto, quindi noi non abbiamo un messaggio forte da offrire. Non siamo così attraenti e attrattivi. Senti, per finire, tra un problema e l'altro, mi pare che continuino le feste di una volta, o anche lì c'è una specie di spending review, restringono un po'? Assolutamente no, qui c'è una gara a chi fa le feste migliori, perché sono proprio il modo in cui o una società o una nazione si presenta a questi investitori, e quindi c'è la festa del Giappone, che è stata una delle più belle, dell'Azerbaigian, del Messico, quella della Mongolia, però, insomma, c'è una rincorsa. E poi ci sono quelle delle società che cercano di essere quelle più glamour, non so, KPMG, la McKinsey, Forbes ha fatto una festa fantastica al Belvedere, è stato tu lì. Naturalmente c'eri, Vittorio, ma tu hai tutta una serie di smoking quindi lì a Davos? Ma no, assolutamente, si va in maniera informale, perché è tutto molto un dress, appunto, informale, tu puoi andare. Casual. Il vero problema però è entrare ad esempio in quelle più elitarie, cioè la festa per esempio di Goldman Sachs è quella più ambita, perché è su inviti molto molto esclusivi. Fatti valere, Vittorio D'Aroldo, noi vogliamo sapere che tu ci vai a quella, va bene? Poi ci racconterai. Ti racconterò. Grazie Vittorio D'Aroldo, buon divertimento a questo punto. Adesso invece andiamo su altre cose molto italiche. Diceva Vittorio D'Aroldo che lì da Davos, insomma, non sono molto interessati ai nostri contorcimenti, anche elettorali, politici, eccetera. Però avete sentito l'Italicum, ma oggi ha avuto il primo sì, il testo base di questa proposta di legge elettorale, ha avuto il primo sì da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, poi abbiamo avuto tanti politologi, osservatori, eccetera. Un sistema proporzionale alla fine, con premio di maggioranza e doppio turno eventuale se nessuno raggiunge il 35% dei voti. Se lo raggiunge c'è il premio di maggioranza, che è del 18%. Poi abbiamo detto liste bloccate dai 3 a 6 candidati e poi norme per la parità di genere, 50% donne e 50% uomini. Però forse diciamo che questa norma non è sincera fino in fondo. E così Roberta Agostini, deputata PD e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Sì, è una norma, anche secondo me, non è sincera fino in fondo, nel senso che bene prevedere un principio di parità nelle candidature 50 e 50, bene anche prevedere l'inammissibilità della lista se questo principio non è rispettato, e questo è un punto forte. Il problema però qual è? È che il 50 e 50 delle candidature si deve rispettare su base regionale, delle circoscrizioni regionali, e non su base di collegio. Su base di collegio si possono avere delle liste alternate con non più di due candidati dello stesso genere consecutivi. Questo significa, per assurdo, volendo i partiti possono fare la scelta di piazzare ad esempio due uomini ai primi posti della lista e con circoscrizioni così come sono state disegnate si sa che passano i primi, i primissimi. I primi, esatto. E quindi in teoria, anche se c'è un principio di parità scritto nella legge, questo principio può essere benissimo aggirato poi dal comportamento concreto dei singoli partiti. Quindi noi chiediamo delle norme un pochino più stringenti, un po' più vincolanti da scrivere proprio nel testo della legge. Però quello che è interessante, mi scusi Roberta Agostini, fra le altre cose, è che a sostenere questa necessità di una vera parità adesso nella rappresentanza, che non c'è mai stata nella rappresentanza politica anche in queste liste, è uno schieramento trasversale, quindi lei del PD, ma poi c'è Alessandra Mussolini o Carfagna di Forza Italia, c'è Dorina Bianchi di Nuovo Centrodestra, anche Elena Centemero, Centemero adesso non ricordo, di Forza Italia, insomma siete in tante, senatrici e deputate, un po' di tutti i partiti, quindi vuol dire che è una cosa unanimemente condivisa tra voi, no? Al di là degli schieramenti. Sì, io penso di sì. Questo è tra l'altro il Parlamento più rosa tra virgolette nella storia della Repubblica, perché in Parlamento siamo tante questa volta, siamo quasi il 30%, noi del PD arriviamo quasi al 40%, anche grazie alle primarie che abbiamo fatto e tante donne si sono affermate. Quindi per la prima volta c'è davvero la possibilità che di aprire strada con delle norme codificate in una legge elettorale, che è una legge importantissima, affinché questo primo risultato, questo buon passo avanti che comunque si è fatto in questa legislatura, poi diventa un punto fermo anche per le altre. Una norma di parità in una legge elettorale nazionale non c'è mai stata. E invece c'è un articolo 51 della Costituzione che dice che è necessario promuovere con appositi provvedimenti la partecipazione politica delle donne, la presenza delle donne nelle istituzioni, e quindi questo insomma ci dà anche uno strumento in più. Abbiamo ascoltato numerose costituzionalisti nelle audizioni che poi hanno portato al testo e alla discussione sulla legge elettorale, in molti ci hanno detto che una legge elettorale che non contiene serie norme anche cogenti di attuazione dell'articolo 51 della Costituzione potrebbe essere viziata. Ecco, quindi io credo che ci sia questo riconoscimento, questo e poi c'è anche un percorso che le donne, secondo me, dentro e fuori le istituzioni in questi anni hanno maturato. C'è un clima nell'opinione pubblica, secondo me, positivo per far compiere a tutte quante noi anche questo salto. Mi dica solo, poi passiamo a un altro argomento brevemente, andrete fino in fondo su questa cosa, Roberta Agostini? Sì, io penso di sì, io spero di sì. Noi siamo anche come parlamentari del PD convinte che bisogna modificare questo punto del testo. Chiarissimo. Mi auguro che si trovi un percorso concreto insieme, così come abbiamo detto, e su questo cercheremo di lavorare. Io mi auguro che anche gli uomini saranno concordi in questo, non è sempre solo una questione di una parte contro l'altra, esatto. Eccetera. A proposito di liste bloccate, leggo un messaggio di un'ascoltatrice fra i tanti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Emanuela dice: se si capisse bene il significato delle liste bloccate, scommetto che quasi tutti sarebbero contrari. Gli italiani dovrebbero poter scegliere chi mandare in Parlamento. Io l'ho capito, dice, grazie a mia figlia ventenne toglierei le liste bloccate. E mi pare che sia un'altra vostra battaglia trasversale questa. Roberta Agostini. Sul tema delle liste bloccate c'è una grande discussione, come lei sa, è uno dei punti cruciali, è uno dei nodi da sciogliere. Io sono convinta che è una delle questioni di fondo anche del distacco che si è creato in questi anni tra istituzioni e cittadini, tra politica e cittadini. Io penso che andrebbe assolutamente restituita la possibilità di scelta ai cittadini di chi mandare nelle istituzioni. Possono essere molti modi, possono esserci delle primarie per legge, per esempio, stabilite per legge. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, perché Renzi già parla delle primarie per il PD, però bisognerebbe istituirlo per legge per tutti i partiti, se no diventa una cosa un po' parziale. Roberta Agostini, comunque avremo modo di parlarne ancora, perché questo iter durerà almeno sino a fine maggio, diciamo nei pronostici più ottimistici. Io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi. Buona serata. Buonasera. Adesso c'è la viabilità, facciamo questa sosta per aggiornare chi viaggia e poi ritorniamo con altri argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E a proposito di notizie, allora ve le ricordo, se avete acceso adesso, se ve le siete dimenticate, insomma avete sentito di questo primo passo della bozza di legge sulla riforma elettorale, Italicum, sia stato il primo sì in commissione affari costituzionali. Napolitano intanto preme, dice subito le riforme. E poi il Consiglio dei Ministri, che ha partorito la privatizzazione di Poste ed Enav, e Letta dice che in questo modo ridurremo il debito pubblico. Per Forza Italia Berlusconi sceglie come consigliere personale Giovanni Toti, che passa quindi da ETG Mediaset a partito. Il doppio incarico di De Luca, del viceministro delle infrastrutture, decade da sindaco di Salerno dopo che è stato accolto il ricorso del Movimento 5 Stelle, però lui subito replica: farò ricorso. L'Egitto è completamente nel caos perché è travolto dagli scontri, ci sono almeno 19 morti nella capitale, il Cairo, e nelle altre città. C'è un annuncio di Lupi, del ministro Lupi, sulle autostrade: da febbraio ci saranno riduzioni del 20% per i pendolari. E nello sport c'è la vittoria, la nuova vittoria del binomio Sara Errani e Roberta Vinci nel tennis agli Australian Open. E siamo al nostro appuntamento quotidiano anche con l'Europa, visto che si vota a momenti, si voterà a maggio, insomma il 25 maggio per le europee. Compie 10 anni l'incredibile viaggio della sonda europea, che come si chiama? Rosetta. Una Rosetta che insegue praticamente una stella cometa, la cometa Gerasimov. E Gigi Donnelly ne ha parlato con un grande astrofisico italiano, anche un grande divulgativo come Giovanni Bignami, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e ora alla guida dell'Istituto Nazionale di astrofisica. Europa 24 notte. Verso le europee. Per la prima volta andiamo a assaggiare una cometa quando è ancora lontana dal Sole, quando cioè possiamo arrivarci vicino senza paura di essere distrutti dal materiale che viene emesso dalla cometa quando la cometa è vicino al Sole. Insomma, abbiamo viaggiato 10 anni di freddissimo viaggio interplanetario per andare a prenderla lontano dal Sole. Adesso ce l'abbiamo a nostra disposizione tutta per noi. Ecco, un vero e proprio abbordaggio è quello che si spera di realizzare nei mesi a venire. Ma vorrei concentrarmi sull'acqua. L'acqua, fonte di vita. Che cosa speriamo? Che tipo di acqua può essere quella che viaggia a bordo della cometa? La nostra, una prima cosa molto importante, no, nel senso che ricordiamo a tutti che quando vanno a fare il bagno da qualche parte in un oceano, in realtà nuotano in una zuppa interplanetaria, cioè a dire gran parte dell'acqua degli oceani è fatta da comete, cioè da oggetti che sono fatti in buona parte di acqua, che sono caduti sulla Terra all'inizio della sua formazione. Quindi dentro le comete ci possono essere dei segreti molto importanti, per esempio per l'origine della vita. Che cosa hanno portato le comete quando sono cadute sulla Terra e hanno fatto l'acqua degli oceani? C'era dentro qualche macromolecolona che poi pian piano alla fine siamo venuti fuori io e lei? Chi lo sa, no? Una bella domanda. Le domande a bordo di questa cometa ce ne sono molte. In questa missione c'è anche la possibilità di avvicinarci in qualche modo ai prossimi passi dell'esplorazione planetaria? Certo, perché lo sviluppo tecnologico che è stato fatto intanto come navigazione interplanetaria, cioè siamo andati 10 anni molto lontano e abbiamo cuccato la cometa giusta che si muove a 50 km al secondo, cioè bisogna essere molto bravi per farlo. Poi gli facciamo scendere sopra, che è una manovra molto difficile, un oggetto che è quello col trapano carotatore italiano che la assaggerà. Insomma, abbiamo sviluppato tutta una quantità di tecnologie che sono fondamentali, per esempio, per un atterraggio umano su Marte, per fare un esempio. Un'ultima battuta, è una missione europea, visto che stiamo andando verso le elezioni, nello spazio, nel settore aerospaziale, l'Europa secondo lei è un successo? L'Europa è senz'altro un successo e l'Italia è stata finora un buon partner a un solido terzo posto, diciamo, nello spazio europeo. Proprio nel contesto dell'Europa, delle elezioni europee, dobbiamo assicurarci però che questo venga mantenuto e anzi, se possibile, migliorato, proprio per l'enorme ricaduta, oltre che scientifica, tecnologica e industriale dell'attività spaziale in Italia. Ne abbiamo un bisogno disperato dal punto di vista di industrie qualificate, di manodopera qualificata. Grazie professor Bignami. Grazie a lei. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Pagina Facebook a vostra disposizione, effetto notte trattino Roberta Giordano, per riconoscerla, ma adesso ci occupiamo di qualcosa di rombante, che come possiamo definirla? Mi hanno dato un nome, vabbè, è la Ferrari. Enrico Pagliarini, buonasera a tutti. Ciao, Enrico. Enrico, vi ricordo, conduttori 2024, il sabato alle 15, quindi domani non perdete questo straordinario appuntamento di fama intergalattica con Enrico Pagliarini, che invece adesso ci parlerà di questa consultazione mondiale che è stata fatta sul nuovo nome da dare, un nome da dare alla nuova Ferrari, no? Si chiama F14T, ecco. Come turbo. Io mi chiedo, quando ho visto questa notizia, Enrico, scusa, mi sono chiesta, sì, è possibile che abbiano praticamente fatto questo sondaggio tra più di 1 milione di persone nel mondo per arrivare a un nome del genere? Cioè, pieno di fantasia, di poesia, direi, F14T, una roba sì, straordinaria. In effetti hai ragione. Allora, la gara era fra 5 nomi che sono stati selezionati dalla Ferrari. Ce n'erano almeno 2 un po' più romantici, fantasiosi, cioè non esageriamo. Allora, uno era F14 Maranello, però è quello che ha preso meno voti in assoluto. Poi c'era F14 Scuderia, un nome che è già stato utilizzato dalla Ferrari, solo il 18% ha votato per questo. Allora, si è avvicinato al risultato del vincitore F166 Turbo o F166 Turbo, dipende come uno lo vuole leggere. Un altro che ha preso pochissimi voti è stato F616, poi magari ti spiego perché gli 1 e i 6, che c'è un motivo. Comunque, insomma, tutti i numeri, e questo F14T ha preso quasi il 33% dei voti. Sì, effettivamente, insomma, ci si poteva aspettare, però sai, in Formula 1 solitamente si usano questi nomi e queste sigle, quindi è un po' molto criptici, molto tecnici. Sì, senti, sì, spiegami proprio così brevemente questa storia del 6. Allora, una delle novità di quest'anno, allora, a parte i motori che saranno turbo, perché torna il turbo, fino all'anno scorso erano motori aspirati, torna il turbo, quindi F14T sta per turbo. Allora, gli altri nomi facevano riferimento al nuovo motore che, oltre ad essere turbo, è un po' più piccolino, quindi è un 6 cilindri invece che 8 cilindri ed è anche di cilindrata inferiore, è un 1006, quindi l'1 e il 6 facevano riferimento al 1006, il 6 ai cilindri, però abituiamoci a F14, quindi Ferrari 2014, di come turbo. Straordinario, questo nome ci turba e turbatevi anche domani con l'appuntamento con Enrico Pagliarini 2024. Ciao Enrico. Grazie, buona serata. Grazie, ciao. Senza fine tu trascini la nostra vita. E voglio così invitare il colonnello Mario Giuliacci con questa canzone indimenticabile, straordinaria, perché questo autunno è senza fine. Io spero che tu continui a dire che è senza fine questo tepore, diciamo. Colonnello, che dici? Buonasera Roberta, buonasera ascoltatore. Bene, diciamo che il fine settimana va bene, nel senso che la perturbazione che è giunta ieri, che oggi ha portato piogge su gran parte dell'Italia, ormai si è allontanata. Diciamo che domani sabato sarà bello al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, ancora piogge sul medio Adriatico al sud, e domenica il tempo su quasi tutta l'Italia, a parte qualche residuo a piovigine su Marche, Abruzzo, Molise e nord della Sicilia. Le temperature scenderanno un po', ma non più di tanto. Invece diciamo che la prossima settimana sarà la prima settimana veramente invernale, perché già lunedì un primo nucleo di aria polare in arrivo da Groenlandia raggiungerà le Alpi e compariranno le prime nevicate nel corso del giorno anche sull'Emilia fino a quote collinare, oltre che su Marche, Abruzzo, Molise, oltre 500-800 metri. Martedì nevicate diciamo sulle Alpi centro-orientali fino al fondovalle, nevicate fino a quote collinare su Marche, Abruzzo e sull'Emilia, invece le nevicate potranno scendere fino alle zone pedemontane, insomma potranno nevicare a Bologna, Parma, Reggio e Piacenza. Nel corso della giornata, sempre del 28 di martedì, nevicate anche fino a Fondovaglia, su Emilia, Romagna, Marche, zone interne della Toscana, debole nevicate anche nelle zone interne delle isole maggiori. Bene, ho capito, colonnello Giuliacci, che insomma arriva davvero l'inverno. Il resto lo potete trovare su meteogiuliacci.it. Grazie colonnello, buon tempo a te. Grazie, ciao Roberta. Ciao, ciao colonnello, a dopo.